24 mattino. La prima cosa che farò, ma credo che dovrò aspettare parecchio tempo, visto la situazione, sarà finalmente andare a trovare i miei genitori e abbracciarmeli tutti. La prima cosa che farò? Un bel allenamento a lungo in bicicletta. Con tutto l'allenamento indoor che sto facendo adesso, sarò fortissimo. Ciao Simone, ti ascolto tutte le mattine, bella Radio 24. Facevo il cuoco fino a un mese fa. Che bello che era far da mangiare per le persone. Poi sei stato a casa, mi hanno lasciato a casa per sto caspita di virus, per non dire altro. Ora faccio il magazziniere per l'azienda ospedaliera. Sono di Padova e sono contento lo stesso. E dai, dai, dai. Dai, dai, tornerai a fare il cuoco. A un certo punto, e noi torneremo a mangiare al ristorante, rispettando le distanze, facendo attenzione, ma ci torneremo a un certo punto. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci di nuovo, la seconda parte di 24 mattino di questo venerdì 3 aprile, sono le 7:20. Ed è la parte dedicata alla rassegna stampa, un po' delle vostre voci, soprattutto il venerdì, con il fine settimana in arrivo, per dirci un po' come, cosa avete intenzione di fare quando uscirete da questa quarantena. Non quarantena, chiedo scusa. Diciamo isolamento, necessità di stare a casa. Un po' tutti ci stiamo pensando, perché più passano i giorni più questa cosa diventa pesante. Senza nulla togliere, lo voglio ripetere un'altra volta, chi in questa fase sta vivendo situazioni ben più difficili di chi come noi è semplicemente costretto a stare a casa. Penso ovviamente a tutto il personale sanitario che sta lavorando in maniera massacrante in questo periodo. Penso a tutte le persone che in questi giorni hanno perso qualcuno di caro, in queste settimane, a chi è preoccupato per i propri familiari che magari sono ricoverati in ospedale, a chi è preoccupato per se stesso perché magari sta male, è immunodepresso, ha delle difficoltà e teme per sé, senza nulla togliere a costoro, però insomma... Proviamo a pensare a cosa succederà dopo. Certo, cambierà molto, un grande spartiacque nelle nostre vite questo. E vedremo quanto cambierà. Siamo alla parte dedicata alla rassegna stampa, come sempre, come tutte le mattine a quest'ora. Iniziamo, come sempre, dai titoli dei quotidiani. Alcuni si concentrano su questo scontro tra la Lombardia e il governo. Se il Fatto Quotidiano parla di governatore smascherato, riferendosi ad Attilio Fontana, il Corriere della Sera sceglie le parole proprio di Fontana: la Lombardia lasciati soli. Il Giornale, dall'altra parte, parla di sciacalli sulla Lombardia, l'assalto di PD e 5 Stelle dopo il successo dell'ospedale in fiera. La Stampa sceglie l'aspetto economico, il braccio di ferro sul decreto per le imprese, ci racconta uno spunto interessante, perché ci racconta di come all'interno del Ministero del Tesoro qualcuno, soprattutto tra gli altri burocrati, stia frenando. Se vinciamo è grazie a loro, è il titolo della Repubblica, i nuovi eroi, si parla di infermieri e medici. Il Quotidiano Nazionale sceglie di parlare di scuola, scuole chiuse, ipotesi allo stop, ipotesi di stop per gli esami di maturità. Ci arriveremo più avanti alle 8:20, sarà l'argomento con il quale apriremo la parte con Maria Latella. Aiuti, la paura sveglia l'Europa, il titolo del Messaggero sulle dichiarazioni arrivate da Ursula von der Leyen su questo piano di aiuti appunto per i paesi più colpiti dal coronavirus. Avanti Marshall, il titolo del Manifesto, sempre sullo stesso tema. Mezzo mondo confinato è quello di Avvenire. Il ballo delle mascherine fa ridere mezzo mondo è il titolo di Libero. Filippo Facci firma un pezzo sulla storia di un fallimento, perché ci arriva sempre materiale scadente o insufficiente, siamo incapaci di produrre un oggetto così semplice. Il Sole 24 Ore racconta che il trading online è alle stelle con il Covid-19. Ci parla anche del fisco, lo stop alle tasse e pignoramenti su conti e stipendi e dell'ipotesi di prestiti alle imprese fino al 25% del fatturato. Arriveremo su tutto questo più avanti. La Verità titola su Conte e PD che scaricano le loro colpe, anche qua il tema è quello della regione Lombardia. E però iniziamo appunto proprio dal tema delle mascherine. Forse possiamo partire veramente da Libero e da Filippo Facci, che ci racconta che nella gara per accaparrarci i dispositivi per proteggere naso e bocca siamo partiti per primi, ma abbiamo perso lo stesso. Attribuisce Filippo Facci a questo, in parte a tutto questo, la delocalizzazione della produzione. In Europa siamo partiti per primi, ma l'abbiamo persa lo stesso questa battaglia, dice, lasciando da parte le inefficienze di governo e protezione civile, le diamo per scontate. Questo paese ha scoperto che cosa vuol dire delocalizzare e lasciare che a produrre certi beni siano paesi asiatici con manodopera a costi da schiavismo. Significa non avere, quando conta, aziende nostrane che provvedono alle emergenze. Significa aver realizzato finalmente il federalismo. Ogni regione ha fatto a modo suo, col pugliese Michele Emiliano che si è rivolto ai suoi amici cinesi, mentre altri governatori facevano lo stesso con referenti magari poco affidabili, certo, ma nei fatti più affidabili di quanto si è rivelata la protezione civile. Così, molto polemicamente, Filippo Facci, posto naturalmente, lo abbiamo raccontato più di una volta, che prima di questa crisi le mascherine, quelle chirurgiche, le vendevano sotto ai 10 centesimi di euro l'una, e quindi produrle in Italia, insomma, non è che fosse un granché conveniente. Sul tema delle mascherine torna ancora una volta il Corriere della Sera e ci torna ancora una volta Milena Gabanelli, perché poi la questione è anche il freno burocratico che viene messo non solo alla produzione ma anche alla distribuzione delle mascherine. Il pezzo è articolato, no? E ci racconta di quella che è una beffa: chi le produce in Italia non ha il via libera per poterle distribuire. Sappiamo che ogni giorno vengono sdoganate 20 milioni di mascherine in arrivo da Cina, India, Sri Lanka, che il decreto del 17 marzo autorizza l'importazione in deroga alle norme vigenti, quindi può entrare materiale senza certificazione CE, e che l'agenzia delle dogane può bloccarlo quando non è chiaro il destinatario, ma non può più fare analisi di conformità. La sostanza qual è? L'esito, scrive Gabanelli, è che la maggior parte è porcheria. A testarle ci pensa la centrale acquisti lombarda Aria S.p.A. E poi c'è la questione della produzione nazionale. Al Politecnico si sono presentati 1700, sottoposti ai test 600 prototipi, solo 10 avevano requisiti di sicurezza, il resto era cotone senza nessuna capacità filtrante. Molti hanno abbandonato. Ma intanto quelle aziende che hanno fatto investimenti, ottenuto la certificazione del test, inviato l'autocertificazione all'Istituto Superiore di Sanità, sono ancora in attesa di conoscere se il protocollo seguito è corretto. E perché? Perché queste aziende non possono, quelle che hanno iniziato a produrre, non possono ancora commercializzarle, perché l'Istituto Superiore di Sanità, che per decreto deve rispondere entro 3 giorni, non lo ha ancora fatto. La procedura semplificata, alla fine si arena ancora una volta, scrive Gabanelli, nella confusione romana. E così è con la vicenda delle mascherine. Forse sarebbe il caso di metter mano a tutta questa vicenda con una certa rapidità. Molto abbiamo parlato della questione del disagio sociale, in queste ore. A quanto pare si sta scatenando, lo racconta a pagina 11 La Stampa con Davide Lessi e Monica Serra, quella che possiamo definire una vera e propria guerra tra poveri. succede e riguarda i fattorini che consegnano il cibo, i cosiddetti rider. I primi casi si sono verificati nella Palermo dei supermercati blindati dalla polizia dopo le minacce degli assalti di questi giorni di emergenza da coronavirus. La sera del 23 marzo un rider ventenne di Glovo è stato aggredito mentre stava per consegnare le pizze nel quartiere di San Lorenzo. A scongiurare la rapina una guardia giurata di passaggio. Qualche giorno più tardi il colpo è andato a segno allo Zen, periferia difficile della città, dove un uomo ha preso di mira un fattorino di un locale specializzato in hamburger. È stato minacciato e costretto a consegnare gli 80 euro incassati nel corso della serata. E i sindacati lanciano l'allarme. A Lucca, una coppia di quarantenni ubriachi ha strappato dalle mani di un giovane le pizze che stava per consegnare. A Bologna hanno rubato la bici a un fattorino in pieno centro. A Pierfrancesco Scatigna, 25 anni, di Brindisi, corriere che lavora per Bici Couriers in zona Porta Venezia, Milano, è stata rubata una cassetta di verdura. Ha provato a inseguire il ladro e lui lo ha aggredito tirandogli un pugno in faccia. La serie dei fatti è lunga, in quella appunto che Andrea Borghesi della Nidil CGL definisce una guerra tra poveri, messaggi e chat WhatsApp dei fattorini che raccontano singole storie di persone alle quali per esempio è stato rubato anche del vino. L'allarme dei giorni scorsi nelle carceri, guardate che non si è risolto niente, oggi lo trovate di taglio basso, in piccolo su molti giornali, ma è una cosa alla quale prestare estrema attenzione. Il primo fatto del quale abbiamo notizia è Bologna, il primo detenuto vittima per Covid-19. E attenzione, sapete perfettamente, perché lo abbiamo raccontato mille volte, in che condizioni sono le carceri italiane in termini di affollamento. E quindi avete una vaga idea di quello che potrebbe succedere. Adesso, senza destare eccessivi allarmi, però occhio, perché come racconta La Repubblica a pagina 23, c'è il primo detenuto vittima del Covid-19, ieri mattina al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Si tratta di Vincenzo Succato, 76 anni, ricoverato agli arresti domiciliari in ospedale dallo scorso 26 marzo. Era detenuto da dicembre nella sezione alta sicurezza, era in attesa di processo con l'accusa di essere un boss di Cosa Nostra. Non si tratta dell'unico caso di Covid-19. La direzione del carcere ha ammesso altri episodi di contagio. Due detenuti sono risultati positivi ma asintomatici e ora in isolamento. Altri quattro reclusi entrati in contatto con loro sono in quarantena. C'è un positivo tra il personale e 15 infermiere e 8 medici dell'infermeria, appunto, del carcere sono risultati positivi. Quindi prestiamo attenzione, riflettori puntati su queste questioni, perché potrebbero rappresentare un problema e in crescita. Voglio segnalarvi molto rapidamente altre due cose. Il virus nelle residenze per anziani. Tanto ne abbiamo parlato, qualcosa si muove, lo abbiamo visto, molto sta facendo in queste ore la regione Toscana e piano piano lo screening sta arrivando anche in Emilia-Romagna. E anche in Lombardia si parla di troppi silenzi sulla nazione, con contagiato un ospite su quattro nelle residenze per anziani, e parliamo di una popolazione che ha un'età media di 85 anni, quindi anche qua capite bene quale può essere il problema. Silenzi, omissioni, scrive Ilaria Olivelli da Firenze, e controlli mancati. Le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili rappresentano il vulnus del sistema, una ferita aperta che colpisce proprio la porzione di popolazione più fragile ed esposta a rischio contagio. Dai tamponi effettuati nelle strutture tra il 29 marzo e il 1 aprile risulta che un ospite su quattro è stato contagiato, e questo vi dà un po' la dimensione anche là di quello che può succedere all'interno delle residenze per anziani. A chiudere, sempre dal Quotidiano Nazionale, siamo però nelle pagine nazionali, appunto a pagina 5. Il tema qual è? Insomma, tanto si parla di vaccino, si parla di ricerca per i farmaci, e però in questo paese la ricerca sui farmaci è parzialmente bloccata da delle regole molto stringenti sulla sperimentazione animale. Ieri Silvio Garattini aveva lanciato l'allarme proprio dalle colonne del Quotidiano Nazionale, il quale oggi ci torna e intervista un biologo, il professor Grignaschi, responsabile dell'Animal Care dell'Università dell'Università Statale di Milano e segretario generale di Research for Life. È una piattaforma che riunisce associazioni di pazienti, centri clinici e istituzioni di vario genere, tra cui Farmindustria, il San Raffaele, Teleton, per conciliare etica e salute. E dice: dobbiamo capire cosa provoca questo virus in un organismo vivente piuttosto che studiarlo in colture cellulari separate, e soluzioni che portano alla cura. Per i vaccini dobbiamo verificare la sicurezza, le reazioni prima di arrivare all'uomo, ma di fatto in Italia anche solo fare un'iniezione a un singolo animale passa attraverso valutazioni interminabili. Chiedono questi ricercatori di poter effettuare appunto ricerca. Una pausa. Mattino. Siamo già in campagna elettorale. Che paese che siamo! Che paese! Siamo già in campagna elettorale, a secondo del colore del sindaco, viva il governo, contro il governo. E poi ci lamentiamo che non abbiamo nemmeno le mascherine. Questo è il nostro paese. In questo momento fare polemiche da parte di alcuni sindaci non era il caso, sono consuntivi che si devono fare a posteriori. Oh, ecco le vostre voci su quello che sta diventando un po' il centro della scena, o almeno lo è in questa giornata, con un fuoco di polemiche che parte dai sindaci e arriva alla Regione Lombardia, e dalla Regione Lombardia va allo Stato e dallo Stato torna indietro sulla Regione Lombardia. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Ciao. Hai già detto tutto. Tutto dei sindaci lombardi. Sì. Del Partito Democratico, tra cui in primo luogo quello di Milano, Sala, quello di Bergamo Gori, polemizzano con il governatore della Lombardia Fontana, il quale polemizza con lo Stato, dice che non hanno avuto l'aiuto, anzi hanno avuto scorrettezze contro di noi. Eppure qui si fanno miracoli. Sto citando da un'intervista a Corriere della Sera Gian Piero Rossi. Per lo Stato gli risponde Boccia, che abbiamo già incontrato più volte in queste mattinate, il ministro dei rapporti con le regioni: sento falsità, ma adesso dobbiamo lavorare tutti insieme. E in realtà è un segno di rilassatezza questa polemica, perché Se mentre il fuoco è ancora alto, i contagi, i morti sono ancora alti, non è ancora iniziata la diminuzione vera e propria, anche se qualche segnale positivo lo si coglie qua e là, e il fatto che si trovi così tanto tempo, come hanno osservato anche gli ascoltatori, per tornare su polemiche che hanno un carattere poi elettorale, insomma, facile dopo, quando ci saranno le elezioni, ognuno presenta il conto e si vedrà. Io lo colgo come un segno di rilassatezza. Vuol dire che al di là delle parole altisonanti, del resto io vedo anche un po' in tutto il paese, ho visto oggi sulla prima pagina di Libero c'è un articolo di Pietro Senati con delle foto che sono più importanti anche dell'articolo. Quarantena alla napoletana, tutti in strada, si vedono delle foto con delle proprio folle di persone in strada, e Libero, che è un giornale di destra, dice che ha ragione De Luca, il presidente della ci vuole il lanciafiamme, scrive. È un caso non di polemica, perché un giornale di destra dà un grande riconoscimento a un grande governatore della sinistra, De Luca, che dice qua senza il lanciafiamme non ne usciamo. Sì, a testimonianza poi che anche politicamente si scombina un po' tutto. Voglio segnalare a questo proposito, insomma, non l'ho vista in giro sui giornali, però ieri anche il presidente della regione Liguria, Toti, su Facebook ha postato delle foto di una via di Genova piena zeppa di gente. Ha detto: ragazzi, così sicuramente anche non si fa. A Roma purtroppo vedi, questo è vero, queste polemiche politiche vuol dire che la si butta in una cosa tradizionale. Un paese serio, quando c'è una battaglia seria, quando ci sono ancora morti in quelle quantità, centinaia, nel giorno in cui nel mondo si raggiungono 1 milione di contagiati, non si mette a fare queste polemiche. È come se nella fase centrale di una guerra mondiale lo Stato Maggiore si dividesse per appartenenze ricordate. Comunque, per essere obiettivi, ovviamente il Fatto Quotidiano è dalla parte di Conte, del governo, e dice le bugie di Fontana, ritardi, forniture, Zanarossi, il governatore smascherato, grande articolo, pagina 2 o 3, su tutti i falsi del governatore. E sull'altro versante indovina un po' il giornale, che, come si schierano il giornale La Verità a favore di Fontana, sciacalli su Lombardia, sto leggendo il giornale, assalto di PD 5 Stelle dopo il successo dell'ospedale in fiera. E la burocrazia intanto blocca le mascherine, e La Verità, Conte e PD scaricano le loro colpe, violento attacco alla Lombardia e via dicendo. Sì. Io tra l'altro Maurizio Belpietro, direttore della Verità, ricorda a Sala e a Gori che loro nei giorni iniziali della crisi coronavirus brindavano, invitavano tutti a far festa, dicevano andiamo per le strade, non è vero niente, insomma fa il malizioso e gli rinfaccia, però ripeto, sarebbe da paese serio rimandare queste cose, non farle per niente. Sì, anche perché i conti si fanno alla fine su questa vicenda di chi è stato in grado veramente di gestire tutto, di gestire nella maniera corretta, nella maniera migliore tutto quanto. Ascolta, ti vorrei portare, posto che questa questione si porta dietro anche il dibattito aperto dalle dichiarazioni del vice segretario del Partito Democratico, il quale parla, è un po' sotto traccia andato, se ne è parlato in questi giorni, è di riportare, centralizzare la sanità, cioè togliere la competenza alle regioni come previsto invece da titolo quinto dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, quindi questo altro tema che ha aperto altri fronti di scontro naturalmente come prevedibile, ti vorrei però portare sulla maturità, perché anche questo tema di discussione, cioè, poi ho visto un articolo intelligente, interessante di Lorena Loiacono sul Messaggero che riassume, chi vuole sapere oggi, anche se non è di Roma, compri il Messaggero, vado a pagina 7, in aula entro il 18 maggio, la maturità sarà solo orale, c'è un doppio scenario per la fine dell'anno, ma l'esame online è sempre più probabile e per gli studenti di tutte le classi promozione sicura e a settembre si recupera con i corsi, ecco, ha detto praticamente tutto. In aula, se non si riesce ad andare e a tornare in aula entro il 18 maggio, e Lorena Iacono mi sembra pessimista nei confronti di questa prospettiva, comunque non lo sappiamo ancora, le decisioni verranno prese alla fine di aprile, o insomma negli ultimi giorni di aprile, ci sarà una maturità solo orale fatta forse addirittura anche con mezzi telematici e tutti verranno promossi e poi a settembre si faranno i conti, almeno invece di farli come per la Lombardia è stato adesso, i conti si faranno alla fine, anzi molto dopo la fine, ci auguriamo che a settembre questa epidemia ce la siamo lasciata alle spalle anche, da un bel po' di tempo. Anche se c'è chi torna a suggerire di andare a scuola, anche mandare a scuola i ragazzi anche a giugno. Insomma, dibattito aperto, se volete ne parliamo poi a partire dalle 8:20 con Maria Latelle e con i nostri ospiti. Parleremo anche di economia, sulla quale arriveremo tra un attimo perché avremo il vice ministro dell'economia Misiani. Intanto il traffico. Mattino. Ed eccoci dunque, c'è tutto il fronte economico, che è quello che ha a che fare soprattutto con... ci sono due aspetti naturalmente, quello dei provvedimenti che dovrà prendere il governo e quello europeo che insomma ritorna un po' in luce in queste ore. Sì, per quello europeo, mettiamolo prima, c'è su Repubblica una risposta del nostro Presidente del Consiglio Conte a Ursula von der Leyen, che ieri aveva scritto a Repubblica allargando le braccia, e nella sostanza Conte la ringrazia per questo intervento, dice però voi siete ancora ingenerosi, si capisce che tra le righe ovviamente, perché non è detto esplicitamente, che un accordo vero e proprio non c'è, anche se i paesi del nord Europa sono più morbidi, sono più aperti, sì. però prima di arrivare a riconoscere agli altri paesi, quelli del sud Europa, Francia, Spagna, Inghilterra in testa, ma anche altri, Spagna, Francia e Italia. Italia in testa, sì, ho detto Inghilterra. Io sono il mio stino a considerare l'Inghilterra, la Gran Bretagna ancora in Europa. Mi do una bacchettata sulle mani da solo e tornando a dire, prima di considerare che i loro modi di far debito possano essere in qualche maniera accollati all'intera Europa, registra. Sì. Anche perché non è solo una questione di debito pubblico pregresso, un problema enorme per l'Italia, ma anche di qualche dubbio che affiora qua e là, ma lì lo si vede soprattutto sui giornali tedeschi, sul modo in cui stanno spendendo nei momenti cruciali di una crisi, succede, per sì. carità. Però ci sono delle spese, poi Beppe Grillo vuole super reddito di cittadinanza esteso a tutti, insomma dice, facciamo, va bene, facciamo gli euro bond, ma per cosa spendi i soldi che raccogli? Esatto. È un po' quello il tema. Sì, detto senza ciò, volerci mettere sì. bocca, però se uno poi spende i soldi raccolti con gli euro bond, li butta dalla finestra, c'è poi un grande tema che i soldi dati si danno attraverso i comuni nel sud, questo è un tema sollevato da Nicola Gratteri, da procuratore Nicola Gratteri, che dice i sindaci qui da noi sono talvolta, come chiamano così, talvolta sono legati alla malavita organizzata, che diamo i soldi in mano alla malavita organizzata. E poi vabbè, insomma, sono discorsi complicati, sì. però c'è anche un aspetto esatto. più positivo dell'economia, che è quello poi lanciato sostanzialmente dall'appello ieri pubblicato in prima pagina del Sole 24 Ore dal professor Giuseppe Valditare, poi una sì. serie sterminata di firmatari, tutti 150 e 150 sì, credo che poi aumenteranno tutti di primissimo ordine. Serve una strategia per ripartire, il paese va sbloccato, diceva questo appello. Di che si tratta? Si tratta di quello di dire, va bene, voi decidete, voi governo decidete insieme agli scienziati quando e come ripartiremo, ma intanto noi cominciamo a fare un ragionamento di prospettiva in modo che il giorno in cui si riparte, anche sì. timidamente, anche per gradi, non siamo al punto zero. Io lo trovo un appello molto sensato, comunque sì. tutti gli articoli, gli interventi, oggi ho letto sempre sul Sole, subito al lavoro per la fase 2, l'emergenza, un'intervista al rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, una persona sì. intelligentissima, poi la piccola industria di Confindustria, Nicoletta Picchio, Presidente Robiglio, intervista sì. Presidente Robiglio, insomma c'è molto materiale, ma chi vuole sapere tutto sì. su questo argomento, sulla ripartenza, mettiamola sì. così, sulla ripartenza, su come ripartire, sulle 24 ore come Bibbia. Allora, a proposito di giornali, però, ce n'è uno tedesco del quale ti vorrei parlare, che è la Bild, giornale ultra popolare su posizioni storicamente conservatrici, un giornale che non ci ha mai praticamente concesso nulla a noi italiani sul fronte appunto dei temi di finanza pubblica, che ha fatto questa paginata con un'infermiera con la mascherina abbassata e con il titolo Wir sind bei euch, siamo con voi, facendo anche un video, sentiamo un passaggino, Carmelo. Tina Maceri und ich arbeite bei Bild. Ich bin Italienerin und wir von Bild. Ich bin Valentina Maceri und ich arbeite bei Bild. Ich bin Italienerin und wir von Bild wollen allen Menschen in Italien sagen, wir sind bei euch. Siamo con voi. Cara Italia, piangiamo con voi per le vostre perdite. Sentiamo il vostro dolore perché siamo fratelli. Ed eccolo qua. Insomma, è comunque un segnale interessante, no? Perché sì, interessante, però scusami, non voglio litigare con te di prima mattina. Ma figurati, ma fino litigare a un certo punto, perché io me lo sono letto con attenzione riga dopo riga, e contiene tutta una serie di stereotipi, voi, la pizza, il mandarino, le canzoni, Paolo Conte e quant'altro, e continua a ripetere, vedrete che ce la farete, torneremo a bere un caffè insieme, torneremo lì a fare le nostre vacanze. Cioè, se fosse un appello generoso, direbbe vi aiuteremo, no, dice guarda, noi vi conosciamo bene, voi settari e mandolinisti, alla fine ce la fate, rialzatevi, noi torniamo a prendere il caffè. Pregherei tutti gli ascoltatori di leggere riga dopo riga, perché molti giornali ne lo hanno tradotto. Parte, leggere bene questa cosa e vedrete che avrete la mia stessa impressione. Sotto sotto, insomma, è uno scappellotto, non è un abbraccio. Non è un abbraccio, secondo me. Mi tengo te. La mia impressione e non voglio litigare con te. No, ma figurati con me, è impossibile litigare. Litigare tra noi soprattutto. Caro Paolo, l'estero. Rapidamente, Donald Trump e soprattutto Anthony Fauci, il grande esperto di epidemie che Donald Trump ha ingaggiato, che adesso è sotto scorta. È sotto scorta perché è nata una campagna virale, potentissima, in cui lo accusano di essere lui che aveva corretto Trump dicendo guarda sta attento, tu dici che è una febbriciatola, ma qui ci saranno centinaia di migliaia di morti, e dice questo vuole rovinare Trump, questi è un mascalzone mandato da chissà chi. E il poveretto, che è il più grande virologo, uno dei più grandi virologi del mondo, ne abbiamo già parlato, ti ricordi, la settimana, qualche giorno fa, sì. Originario italiano, 79enne, grande eroe della lotta contro l'AIDS, e adesso deve vivere sotto scorta perché è minacciato per aver detto la verità e per tempo negli Stati Uniti, che sono nel piano del ciclone, Massimo Gaggio, Corriere della Sera, gli disoccupati, gli affitti non pagati, un'altra onda travolge l'America. Ieri lo stesso Papa si è commosso per quei disgraziati lasciati dormire per a Las Vegas nel parcheggio. I Dem democratici rinviano la convention e litigano tra loro. Avrei visto ieri che Alessandro Ocasio-Cortez ha lasciato Bernie Sanders, il fratello del governatore Cuomo, grande rivale di Trump, si è ammalato anche lui di coronavirus. Insomma, gli Stati Uniti sono nel pieno della tempesta con questo poverino. Sì. Di Fauci travolto nei modi che tu hai raccontato. Paolo, fammi chiudere con un uomo molto anziano che dà, per così dire, un gesto di speranza, se così vogliamo chiamarlo, così chiudiamo con qualcosa di un po' diverso. È Bernie Ecclestone che diventa padre a 79 anni, questa è una notizia, cioè nel pieno, perché quando il bambino è stato concepito, l'ex boss della Formula 1, questo è il suo quarto figlio, la moglie è 44enne, quando è stato concepito si può dire che il virus fosse già in circolazione, ha dato questo segnale di speranza e di vitalità al mondo intero, concependo un figlio che vuole sapere tutto, pagina 29 del Corriere della Sera, articolo di Arianna Ravelli. E ho detto 79, sono 89, stavo per correggere, quasi 90 anni. Io ho detto 70 perché lo confondevo con Fauci, mi ricordavo, ma poi ho guardato meglio, sono 89 anni, 90, a 90 anni. A 90 anni. In pieno Covid-19, Bernie Ecclestone concepisce un figlio, mi sembra la più notizia che dà più luce e anche più speranza. Quindi si possono aspettare gli 89 anni, ma forse anche i 90, e ci arriveremo alla fine di questa pandemia, forse. Forse. Allora, grazie Paolo Mieli. Anche per oggi ci risentiamo ovviamente lunedì, come sempre, intorno alle 7.30, GR24. Ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Ci occuperemo di scuola e parleremo anche di economia, come si diceva, col vice ministro Misiani. A tra poco.